perché è descritta la terza apparizione di Gesù, però riflettendo risuonano dentro degli interrogativi, li accenno appena, eh. Tra l'altro noi quando diciamo il credo diciamo la risurrezione della carne, non va mica bene, eh? Cioè, la risurrezione del corpo, il che è diverso, e qui si apre tutto una riflessione che sto cercando di fare per me, non so quando arriverà il tempo per farla tutti insieme. E poi un'altra idea che sta sotto, che gironzola quando siamo di fronte a questi racconti delle apparizioni. Quali sono le buone ragioni per cogliere che cosa vogliono dire a noi oggi questi racconti della risurrezione? E proviamo a entrare nel brano che abbiamo ascoltato. Quando udiamo i nomi dei discepoli, si trovavano questo, quest'altro, quest'altro, è come se sentiamo i nostri nomi, come persone inserite anche noi nella loro schiera. Quasi a rintracciare, quasi a rivivere le medesime esperienze, le medesime vicende di vita. Perché? Questo, come altri, è un racconto che vorrebbe dire a ognuno e in ogni epoca come fare o come tentare di riconoscere Gesù Cristo, ma riconoscerlo come uno che sconfina, che va oltre il confine, che supera la morte. E quindi rende, come dire, sensata la nostra vita, le nostre esperienze. Infatti, noi dove incontriamo i discepoli? Nel racconto, nelle attività quotidiane, andavano a pescare per vivere. E è una situazione infruttuosa, una lunga notte, senza fine, piena di fatica e con poco o niente di risultato. Faccio notare che ogni volta che nell'Antico Testamento il Signore rivolge delle domande a un essere umano, si tratta di cogliere qual è il nodo di verità che sta dentro in quelle domande. Soprattutto nelle ore in cui si gioca un po' il tutto per tutto, nelle scelte, nei momenti difficili, nei momenti gioiosi. Sono domande molto pertinenti e penetranti, il che vuol dire che non possiamo sbarazzarcene così, dando ad intendercela. È tanto importante questo che Gesù, prima di fare la domanda, si rivolge ai discepoli con una parola tenerissima: figliuoli. Stupendo. No, figliuoli. Un modo di incominciare il dialogo, il discorso, rassicurando, figlioli, È come dire, proprio per cogliere che cosa ci può star sotto le domande, è un modo per dire: ma smettetela di raccontarvi storie consolatorie, ma però ti ricordi quando, no? Voi potete essere onesti con voi stessi, ditevi la verità di voi stessi, sentitevi liberi di esprimervi ciò che siete. Dire che non avete preso nulla in tutta notte non è un'auto-umiliazione, un'autorilevazione umiliante, ma è l'inizio di una nuova vita. Cioè partire proprio da lì, proprio il principio di un'aurora che spunta, guarda caso, nel bravo Vangelo, dall'altra riva, all'altra riva. Gettate le reti sul lato destro della barca. Significa questo ripercorrere ancora una volta tutte le cose che sono state vissute, chiarircele, prendere la vita in mano, non più perché altri lo fanno o lo danno ad intendere, ma un'intima convinzione. Perché questo? Perché riceviamo l'incarico dall'altra riva, dall'altra riva. Tutto il discorso della promessa di Dio. È così che la nostra vita si riempie di significato. Mi viene a questo proposito di chiedermi, parlo per me a alta voce, perché mi ritengo un quasi credente. Vabbè. Che cosa so io di Dio? Cosa so? E come posso conoscerlo meglio? È un paradosso di questo brano del Vangelo, di questo racconto. I discepoli non riconoscono Gesù quando sono vicini a Lui, mentre il discepolo che lo ama, lì sul lago, non appena la rete si riempie di pesci, è esplosivo, è il Signore. Allora, è lecito pensare che quando la nostra vita comincia ad essere più vera, più autentica, perché cogliamo il meglio di verità di noi stessi e quindi anche una parte di felicità che ci abita, poi magari le vicende ce la tengono sotto la cenere, però c'è. Riscoprire questo, allora noi avvertiamo meglio e riconosciamo che forse Dio è presente davvero. Faccio due o tre osservazioni veloci, allargando un pochino lo sguardo. Spesso si è accusato il cristianesimo di rappresentare una specie di fuga dal mondo. Le cose del mondo, sì, va bene, ci siete, buonanotte. No? State solo nel sogno se sognate l'altra riva. E questo non è vero. Cioè, ci sono persone come il discepolo Giovanni, è una parte di essa, una parte di questo entusiasmo di Giovanni, di questa convinzione di Giovanni, ce la portiamo dentro anche noi. Sono persone che vedono intuitivamente, intuiscono. E ci sono persone del tipo del discepolo Pietro, e in noi c'è anche questa parte di Pietro, titubante, sfiduciato, qua o là. Non so se mi spiego bene dicendo, è la fede, è questa fiducia che insegna, mi insegna a sostenere la distanza, sostenerla, la distanza che mi separa da ciò che spero. La fede, la fiducia mi dice e mi sostiene dentro in questa distanza. C'è ma non c'è ancora. Lì c'è tutto San Paolo che dice, vabbè, sperate le cose che... C'è anche un'altra obiezione messa così, contro l'incontro, comunque un'obiezione mossa al cristianesimo. E te l'accusa di, obiezione di, voi cristiani svalorizzate l'essere umano. Quando dico essere umano dico tutto, tutta la persona. Anima e corpo, puoi già dire anima e corpo, questa è la persona. Dice l'obiezione, a cosa serviamo noi deboli con tutta la confusione di vuoto, di notte disperata, di notte vuota, senza prendere nulla? Ma chi sono di fronte a Dio? Ah, è un fantasma, dicono all'inizio, no? L'apparizione di Gesù sono dei fantasmi. È che i discepoli a un certo punto trovano l'altra riva, dove c'è tutto pronto. I momenti decisivi della nostra vita, quando scopriamo almeno una parte di verità e anche di felicità in noi, sono i momenti in cui troviamo qualcuno o avvertiamo qualcuno che ci ama. Troviamo qualcuno che ci dona. E questo, qualcuno che mi ama, qualcuno che mi dona, non mi umilia, non mi svalorizza, al contrario. Leggiamo la cronaca di questi giorni, che per non andare alla Caritas a prendere il piatto si buttano dal ponte. In realtà sono queste qui, cronache. Non vergognatevi se avete bisogno dell'altro, anzi riconoscete che proprio perché il bisogno è reciproco, oggi è lui che, o lei che dona, o gli altri che donano a te, poi sarai tu a donare agli altri. Allora succede come in questa immagine che Gesù torna, viene, spezza il pane e si trattiene con i discepoli. Viene, spezza il pane, stamattina noi qui, e si trattiene con noi. non avremo bisogno di dire: ma tu chi sei? Perché lo sappiamo bene che è il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.